Ma che cosa te la faccio? Quello sottile, quindi mi sono dimenticato così, è stata poi una batteria elettrica, mi sono dimenticato di prendere un pezzo di canale, adesso vedo un po' se andiamo a casa. Guarda, però prima di comprarla, dimmelo, perché ho chiesto, ma se forse c'è un pezzo giù in tavernetta. Se poi non c'è? Se non c'è, sono più nel volante, al momento va bene così. Cacchio. Allora faccio così, io guarda, vengo, ti collego il cavo, al limite tu se lo sistemi nella canala, facciamo così. Vabbè. Non tanto si tratta di un paio di mesi insieme, tu io ho sempre di mio nulla. Vabbè, però fai. È cosa vuoi dire, cartucca? Ciccia, che malacche. Tu pensa al casino che ne lascerà, sì, tra un paio di mesi, tu pensa al casino che ne lascerà tra un paio di mesi. Non lo so, io ti ripeto, ho la possibilità di vederlo uno e l'altro, poi quando sarà vuol dire che qualche cosa ne inventerò, no, al momento non ne faccio una malattia perché non sono uno che ha attaccato al televisore, quindi non ti posso dire solo una cosa, che se mi interessa una cosa e ancora TV non c'è, allora l'altro lo guardo. Esatto, sì, dai, lì mi sorvevo, ti metto il cavo, se lo vogliamo facciamo funzionare e poi niente. Se lo tiene così momentaneo, tanto durerà poco, poi gli metterai sulla canaletta, poi vedi un po' quello che devi fare. Va bene. Un metro e mezzo di cavo dentro casa, a me non c'è neanche, gli mettiamo due graffettine con dei chiodini, come uno che li frossia. Gli mettiamo lo spinotto, cioè uno spinotto su, normale, salata con l'antenna. Prima di mettere lo spinotto alla fine, dopo glielo chiudiamo nel bordo lì con la canna fumaria. E tu, quando non riesce più, via, non lo svegliare e la mettiamo a tutto. E allora, facciamo riprendere anche agli altri, se no facciamo troppi pingoni noi. Ehi, Mario, riprendi Mario. Mario, riprendi. Mario, riprendi Mario. Ma non vuoi riprendere pronto, Mario, ma insomma. Io Mario riprendi, se non c'è una cazzo che non riprendi, Mario! Thank you. cacciatore più grande? No, io ho cambiato praticamente il finale che si è bruciato, e siccome di quelli da 3 metri non ne avevo, ne ho messo quello da 4. Ah, cacca. E vedi questo finale, vedi come si brucia, vedi come si brucia un finale. Allora gli ho detto, vedi quello da 4. Quindi se la regola per uscire sono 3 bassa. La pasta ce l'ho avuto 4 watt allora. 4 watt, puliti, puliti l'antenna. Cioè, tutti, cioè non smettono di avere la punta dall'antenna, 4 watt. Dai, capo. Ma no. E me lo muro non parlo di mia Cristian. Sì, io non ho fatto quasi tutto. Adesso domani facciamo il resto. Aspetta un attimo. Aspetta, cos'è? Sulla vita di Dio! Oh! io che senza che si vuole male, si vuole male, eh. Già va bene, già va bene. Signori, che ne so che ho passato di giorno nel tempo? Ehi, sono convinti, dai, ora di andare a mangiare tra un po'. Non so, andiamo a passare. Io prima di mangiare adesso guardo, faccio una bella doccia rilassante, tonificante, e poi lui lo mette nel contorno e i piedi sotto il tavolo. Ma no, io la doccia non me la faccio mai, perché sennò poi prendo una doccia di pugine e mi tocca la fame tutti i giorni, invece non me la faccio e quindi rimango così, capito? Almeno una volta alla settimana. Una volta alla settimana, ma che sanno, sai? Ma se capite che cosa la dai, no, non mi siamo visto la quella, no. Qualcosa io. Io c'è la stanza di giorni, tu con la mattone. faceva mangiare? Quello stava lavorando. Poi è stato sparisce. Lei, signore, dai, divertite con la voi. Adesso vado e faccio una bella doccia. Al limite se coincide, dai, più tardi, mentre voi saluti. Riprendi Mario. Se coincide ce l'ascoltiamo dopo, là. Allora, andrà bene. E così è Luca, cazzo, io sono andato a pigliare un travaglio, mezzo giornata da voi fuggi, mezzo giornata e fuggi. Se lo mette la testa di me, sai quello che è la barruzza. Per carità, ma io non gli avrei dato niente. Era voi l'avrei chiuso, gli avrei dato tutto. Ciao a tutti, dai, sentiamo dopo, buona carica, vai già. Cappa. Ciao Tino, ci sentiamo, dai, buona carica. Antonio, e beh, i lavori come procedono? Tanto mi è sparito. Ah, sparito. Ecco, per forza con la bambina. Cosa ti stavo dicendo, Luca? Ma la mattina lavorando stai? No, ragazzi, non sto più entrando. Quindi stamattina sono entrato un paio di fiaschi ho chiuso. Poi pomeriggio ci hanno staccato la luce, che stavo facendo dei controlli qua alla gabbia vicino a casa. E siamo rimasti all'incirca 2 ore senza luce. Capogatta. Vabbè, no, io se chiamato stamattina se c'è Luca. Invece non ti ho sentito per niente, ho detto invece devo che ha ripreso il lavoro con la barca. C'era mille luce della barca, c'era Vazietto, e se ne facendo le schiena già. Io ne sono stato in pizza, non so neanche dove vanno. lì io volevo, ma è tutto nel pannello, lui. Certo, te lo smonto, non c'è problema. Niente, tutti ce li ho buttati, adesso le pelle, tutti i dadi nuovi, quelli lavorano bene, no? Tutti ce li ho buttati, e va si arrangia. Mario. Esatto, come argentati sono io, non come i miei, perché si mette a valore tanto, ma allora. In effetti io molti dischi ce li ho ancora alcuni, anche se da Marcello, mio cugino, perché noi facevamo le cose assieme, no? Quindi compravamo assieme e quindi conoscevamo le cose, ognuno metteva i suoi. Un paio ci avrò una, non ricordo neanche, se non scatenati non so neanche in quale scatenazione, però ne avrò una settantina. Ma lui non avrà circa qualcosa più di me. Centinaia, non dico migliaia, ma se come canzoni ne ho migliaia, nel senso perché sono musica alla radio, ti davano le compilation, per dire, su un LP ci sono 10 canzoni di 10 artisti diversi, cioè ci avrò, come titolo ne avrò 3.000, 4.000 io. Ma io mi sento, ho gli MC, insieme ai vari cantautori, e ho anche le scrittette degli anni che sono. Fino agli anni 90, ti posso dire il 90% almeno della musica che andava per la maggiore della commerciale ce l'ho, se non ce l'ho in disco ce l'ho in cassetta o in bobina. Io addirittura ho alcune canzoni addirittura in bobina, ma con i vecchi flash e il vecchio registratore sulla bobina, tipo il proiettore, no? Come due razze del fondi. Con le bobine da 26 che pesa roba di 25 kg, 4 tracce, una bestia di apparato, una cosa allucinante, c'era ancora, ha funzionato perfettamente, il problema è che non si trovano più i nastri, infatti i nastri miei sono tutti usurati, sono strausati e per cui pesano di fedeltà. Vabbè, chiaramente, facciamo riprendere Mario. Più. No, io quando quelle che si mettevano in altri, con l'equalizzatore, cose, affidato, ho regalato via tutto, non me ne posso nulla. E niente, purtroppo è così, la roba dove non c'è passione no, non le tieni. Gli apparati ce li ho esaccolati, però non ne ho mai né venduto né dato. Amplificatore geloso. conservato. Però se ti dico, questo amplificatore che dico io funziona a 12 volt o a batterie, c'ha 4 batterie e tira fuori 8 watt la potenza massima, se tu lo senti suonare ti sto dicendo non c'è confronto, io ti sfido e mi puoi portare l'amplificatore che vuoi e poi facciamo i confronti. Ti sto dicendo, io ho riconosciuto la musica nuova, ho riapprezzato la musica quando ho preso questo amplificatore, è un pezzo di plastica, da solo l'interruttore d'accensione che fa da volume, è buono, non ha nient'altro, un ingresso unico è riuscito a fare le casse. Se tu lo senti suonare è una cosa fuori dalla natura, è una cosa spettacolare. Ho visto le recensioni di questo, e quello che avevo comprato della rivista, e hanno detto che non esiste un amplificatore sino a 20.000 euro che suoni meglio di questo. Grande, niente, quello che entra esce dalla musica. Ha una separazione credo che non ne avevo mai sentito, faccio cose da una definizione altrettanto, ti sto dicendo è una cosa, un futuro lui non lo baghi, Marco, cioè non lo stupi addosso perché è un pezzo di plastica, non ha nessun controllo, quello che entra esce, al contrario di amplificatori transistorizzati che hanno filtri eccetera eccetera, questo non ha niente, però c'è un suono che per me non è mai sentito e non lo dico io, lo dice gente che prova degli impianti, recensioni di impianti di quei prezzi che ti ho detto prima. Prepararle la cena. 1500 km. Era passeggiata una macchina piccola, praticamente è sceso a Cagliari, ci ha fatto la amici di Nokia, nella Nokia abbiamo capostato con un cavalli 400, quindi a capostare con la macchina ce l'avevamo un capostato. Come dire quello che andavamo al frigo perché la capostava? C'era un periodo che in 2 CV4. E per quello abbiamo capostato anche la notte di Natale del 97, la cucina di Natale del 97, abbiamo capostato lì alla, dove c'è il posto, come si chiama? L'Unione Mondiale, e quindi di questo in giusto. Come metto vai, perché a me non è tutto più acciaio. quando mi passavo lo cinesco tu sei un ecco, sono per verificare quei bambini e cose. Per verificare le scarpe, allora l'hanno messo fuori i pantaloncini scorsi. E noi quelli che con compagno di fantasia, che sono quelli che ci sono a giocare a pallone per intenderci. Dai, sì, vabbè, perché tu adesso già hai figli già grandetti, è normale, ma io anche se mi dovessi mettere il pantaloncino, il pantalone lungo per registrare, molte volte la mattina quando sono scemo mia figlia entra in maglia con me, quando io devo andare in bagno, lui entra con me perché cosa non posso lasciare da sola. E quindi vado in bagno e lui mi segue. Praticamente molte volte anche lui davanti a me porta parole. Quindi la notte. Chiaramente si male, poi che cresce, che va, inizia a avere già la sua stanza, inizia a capire di più, chiaramente non è che, vabbè, ogni caso non entra più in bagno con me, no, e io non circolo più in casa, ma non è che circolo proprio in mutande, io ho sempre un pantalone, come si chiamavano, tipo pinocchio, ciuda, che arriva alle ginocchia, ma metto quello e ciccia. Ma quindi se sì. Ogni tanto c'è una nuova. Tutti gli discorsi sono belli, quando sono fatti tranquillamente si parla come se fossimo da noi. No, io vado a caricare, scusate, ci riprendo qua un po'. Io come senso di caricare, dopo ci dice cosa hai caricato. Comunque, tornando al discorso delle macchine, Antu. Dimmi. L'anno scorso, a gennaio, ho guardato su internet, ho trovato la macchina che piaceva a me, sono andato in aereo la mattina e la notte sono entrato in nave, anzi avevo bilato tre le macchine, una io e due un amico mio, ce le abbiamo portate e ce le abbiamo prese, ne abbiamo risparmiato una banca di soldi. Poi da parte delle macchine, io ho uno zio che abita a Como, lui è un imprenditore lì e abita a Como, molto attento, se vuoi una macchina, dice, buona, dice non macchina utilitaria perché dice lui non se ne torna, poi dice però faccio prendere due soldi, buona, nuova. Non so, c'è di questo mercato di lì, non so come te noi, qua c'è, non c'è concorrenza, ti fanno i pezzi che vogliono, mentre di lì cacchio sono uno attaccato all'altro, la roba ci sono le concessionarie e le autosaloni uno attaccato all'altro. Tu pensi che chiama il mio zio? Allora fammi, vediamo un po'. Io ho preso la pulso 6 anni fa. 8 anni fa mi era proposto una Sentra, non Station Wagon però, una Sentra, la 1008, completa di tutto, nuova proposta, a praticamente 9 milioni all'incirca, su e giù. Che fisca? Non l'ha voluta, mia moglie dice, vabbè, allora vanno a casa, dice, no, non c'è per fare una macchina finita, finisce i soldi, si conferma che con cura, c'è la ragione, ma se fa per la nuova, anche se più piccola, poi magari dice uno schifo, magari si ferma dopo 3 giorni, come sa che lo dia, non è più piccola, è nuova, è grande, è usata mediana. Ma sa perché, perché anche nel continente, già, anche se sono nuove, io dico, però magari hanno fatto 300.000 chilometri e si fanno vedere che hanno fatto 80.000, quindi tu non lo puoi mai valutare, però era nuova questa, era nuova, la gente si ha fatto, poi c'è il discorso chilometri, perché là loro se lo prendono le mani, Ma c'è lo so, mio cugino a Milano, sai che c'è questa bastardata che ha fatto? Praticamente, preso a Milano, non si trovare la madrina, e ha trovato questo signore che stava venendo un Mercedes, aveva c'era il 200 SE mi sembra, e io, fatto sta che gli è piaciuto, questo qui lo stiamo vendendo perché era praticamente del padre che era morto, e quindi non se ne faceva niente, ce la vendeva in giro, ma la macchina non ho visto, ma perfetta, fiammante, funzionantissima, e io quindi la chiesa, no, sono fratellato per imbarcarla. Cosa ha fatto questo qui? Aveva un figlio di una mamma, l'ha assicurata, no? E ci ha fatto la pulizia, quella tipo come ce l'ho io, no? Nel caso che dice che la macchina che la presa se la trasporta gratuitamente. Praticamente partito da Milano, dopo uscito da Milano, mi ha cercato un figlio sulla 9, ha chiamato il terapeuta e mi ha portato a creare sui gratis. E infatti il cugino è un gran figlio della mamma. Guarda, la gente arriva a fare di tutto. Quello doveva cagare da là, lui. E allora, mica si scemo me. Io sono uscito fuori da Milano, come ho fatto 4 km fuori da Milano e ho cercato dei fili. Ho chiamato il servizio, la macchina mi si è fermata e poi sono venuti. Ma mi dicevano di andare, io sono venuto in Sardegna, ma l'avevo imbarcata, ma l'avevo scaricata a casa e gli dobbiamo fare praticamente a casa. Lui ha detto, scaricatemela qui. Fatta la nave, l'ho rimessa a casa, se l'ho scaricata a casa, non è che la sono fermata, se ne sono andata in massa, hai capito? Io ce l'ho, però se la vado a fare un po' più vicino ti pagano il ristorante, molto qua. No, io la polizia funziona così. Allora, la polizia è così a scelta. Allora, se tu sei fuori del continente e non sei del continente, chiaramente loro ti offrono il rimorchio della macchina, nel senso che vengono te la rimorchia e te la portano alla tua officina vicina. Ti pagano le spese chiaramente di soggiorno, se devi mangiare o dormire. Però se invece sei in viaggio e devi rientrare, per esempio se io mi chiamo e gli dico guarda io devo andare in Sardegna, non è a Sassari, sono diretto a Genova, ma non se ne imbarcano in nave, capisci come funziona. Perché la mia c'è scritto praticamente che ti portano all'officina, offrono l'officina e niente. E poi se poi sei fuori ti pagano anche da mangiare e l'alloggio, il ristorante. No, invece io posso scegliere di portare dove voglio la mia, perché io non ce l'ho convenzionato con Fiat, io posso scegliere dentro di lì. Quando mi sono fermata a me sulla motivo dell'altra volta, che si era bloccata la pompa di alimentazione, io gli occhi avanti, poi è ripartita la macchina, vabbè, se gli occhi avanti, lui ha potuto uscire di farmela portare, cosa ne so, o in campagna da mio padre, o in campagna da me, oppure un'officina Fiat che voglio io, oppure potevo uscire di portarla con di voce lì, in un qualsiasi meccanico di mia fiducia, anche se il mio meccanico per esempio è a Tizi, a Chiesi, a Ittiri, se devo dire io la macchina la devo portare a Ittiri, e loro se la portano perché sono obbligati. Se mi fosse capitato invece al contrario che io sono di Sassari, non del continente, sapete, no, la macchina la trovate a Sassari in tal punto, e poi vi arrangiate. Io ne ho due, c'ho quella dell'Opel e quella della circolazione, tutti e due. La Fiat però è scaduta al quinto anno, quindi ormai non c'è più, è certo quella della Fiat, della circolazione, che l'ho fatta anche da voi, non sa mai, molte volte sai ti capita, non guasto, perché mi è capitato, ripeto, è che sono stato fortunato quando ho acquistato la macchina, io praticamente ho comprato l'appunto, che faccio adesso. Il due giorni dopo che l'ho acquistata sono sceso, no, io che la prendete di venerdì, la domenica facendo con la moglie all'alghero, eravamo fidanzati. Scendo all'alghero, ho parcheggiato, abbiamo fatto la partita a piedi, abbiamo cenato, vado a riprendere la macchina a mezzanotte, ti do la chiave e non partito più. E li ho chiamati, sono venuti, ho tentato di controllarla lì, non sono riusciti, ma ho rimorchiata, mi hanno accompagnato in taxi fino a casa a me e a mia moglie. Poi di nuovo anni sono andato a prendere l'officina e mi ha pagato anche il taxi per andare in officina a prendermela. Io ho preso il taxi, dove ho detto lui prende il taxi e va in officina, io ho preso il taxi, sono andato in officina, ho dato la ricevuta e abbiamo pagato. La ricevuta non abbiamo preso cerca di tenermi la macchina. La ricevuta di quando l'ho accompagnato a me, a casa mia, mia moglie a casa sua, che ancora non lo vivevamo assieme, e mi hanno dimostrato tutto. E a chi l'ha dato la ricevuta? Alla Fiat. E allora la Fiat gli ho date, perché io avevo quella polizza. Aziendale. Non lo so, ma storia, io sarebbe senso, la conosco bene, lo conoscevo bene, e la storia la so. Praticamente la fiducia come... Esatto, come vendere, sì, un paio di milioni in meno, ma neanche tanto. Ma che vista mattina tu vuole lampada, infatti lui ha detto non va a rimanere, no, no, no, ho preso un sacco di soldi secondo me, vabbè lui l'ha rivenduta, l'ha riguadagnato, però se non era un affare mettere a posto con la macchina, le trovi molto di meglio e per molto meno. Quando lui ha terminato di riparare con la macchina, io la mia l'avevo appena acquistata, perché ho detto la mia è una delle prime, la mia era una delle prime prime, la mia praticamente lui ce l'ha vista forse in ottobre, settembre, nel 99, io la mia l'ho presa in dicembre, perché era una delle prime. Prime. Era ancora una legale fuggente, arancione, metallizzato, brutta, che altro proprio riuscito a rivenderla. Sì, ma era quel colore andava, ma gli hanno fatto quella serie lì che non hanno più fatto, non ho più visto una in giro. Anzi, oggi come oggi in giro non ne ho visto più. Sì, con le oro, c'era un amico mio, quella dorata, non so se l'hai visto, non è che sono brutte da vedere. Certo, sono veramente brutte, se no non è brutta la brava. Mamma mia, non so se era brava, allora, ha fatto la gaggiazza. Perché non si fa bene la macchina quel colore. Io la musica mia è bianca e la stavo sempre cercando, l'ho in nera. Quando l'ho vista bianca, giusto, non può essere, perché era proprio la macchina che piaceva a me. I miei sogni, ho detto, a me non me la fotti nulla da avere macchine Mercedes, BMW, quella lì c'era altro di furci. Attacco l'alimentatore perché non c'è più batteria. La musica è una bella macchina, oh, a parte quelle verdi e quelle di quel colore strano, boh, cosa cavolo è, quell'oro strano, scuro, ma che schifo. Corrosione, ma il 126 era micidiale. Sì, 126, ma se ve lo faccio a capo, 200 km, la sempre a me in un garage. Ho voluto anche una cosa abbastanza. Ma io tutte le macchine che ho preso, tutte le macchine a parte la multipla e l'appunto incidentate, sistemate, e le ho tutte rivendute molto di più di quanto mi sono costate a me. Vabbè, normale. Io l'unica macchina che ho comprato incidentata era la 127, la prima che ho avuto, che era sbattuta avanti, e le avevo cambiato un parafango, cofano e mascherina. L'avevo pagata 150.000 lire nell'89, sì, maggio 89 l'avevo comprata. Nel maggio del 90, o stesso giorno che l'ho comprata, l'ho distrutta perché l'ho uscita fuori strada e mi sono sbattuto un muro. Diciamo quella che ha preso ormai l'hanno grossi colpi, quei colpi del padrone mezzo indeciso, che non sa se ripararla, cosa del genere, dice quelli che sono titubanti, e io dico ma sta volendo, gli fa la portata, io non, oltre che, cioè non lo faccio mai per entrare, cioè comprare una macchina per rivenderla ad altri, l'ho fatto solo per la macchina mia personale, basta, questo discorso, ma ci sono carrozzini che lo fanno normalmente per commercio. No, sono qui, faccio per vedere se l'hanno una signora, praticamente. Lavorata al figlio, il figlio non ne ho patentato, e si è sbattuto praticamente entrando nel giardino, come avevano un cortiletto, stavano nel cortiletto, si era sbattuto praticamente al piatto nel cancello, e qui aveva rotto faro, mascherina, parafango, aveva piegato il cofano. Il cofano sono riuscito a raddrizzarlo, perché nel senso che l'ho tagliato con la mola, no? L'ho tagliato con la mola, l'ho raddrizzato, l'ho risollato e poi l'ho struccato. Però il parafango ho dovuto cambiarlo per forza, perché altro quanto schiacciato non l'ho dovuto tirare. Ormai già si fa in fretta, perché è tutto bullonato le macchine. Prima, 20 anni fa, i parafanghi erano saldati, non si trovavano le fit, adesso trovi tutto di concorrenza, eccetera, eccetera. Sì, no, si chiama, io ho visto un po' cambiati, questi concorrenti adesso sono tutti certificati perché vengono esportati anche negli altri paesi della comunità europea, ho visto qualche volta, rarissimamente, dove qualche problema, però in massima vanno bene, dai. Io voglio farmi sparare un filo dietro per la mia macchina di concorrenza, per questo farò schifo. Guarda, adesso c'è questa ditta, la Embo, che fa questi particolari, sono veramente fatti bene, a livello dell'originale, non ho trovato ancora un problema con questi paraurti qua. Ma se vuoi comprare la macchina, se vuoi quelle che non sono originali e quelle che sono originali. Lo so già, io adesso voglio comprare il farolfi della mia macchina posteriore. Comprare il veneciare perché quello che ho messo sotto tutto, ho dato la macchina invece. Mi viene il coso al cuore. Perché veneciare il tuo. Guarda, no, non insisto tanto, però a me non me ne è mai capitato neanche uno. sembra magari che non è smontabile, però si toglie. Sempre stiamo parlando di un paraurti in tinta, ma che non abbiamo fatto uno nero, di quelli neri l'abbiamo fatto diventare in tinta verniciandolo. Ma il mio è nato in tinta, la macchina l'ho acquistata con i paraurti in tinta. Anteriormente le bordature nere sono smantellate, posteriormente no. Mantù, la prima volta che sento una cosa del genere, non li ho mai visto, e ne ho fatto centinaia di punto. Non lo so, mi stanno venendo i dubbi, ma che non ti abbiamo messo un paraurti non originale a te, oppure abbiamo utilizzato un paraurti di quelli neri e l'abbiamo sverniciato e hanno lasciato la parte centrale nera. La prima serie di punto ti confermo che era nera, ma la seconda serie non li ho mai vista. Ma sicuro che quando questo qui mi ha cambiato il paraurti, a me me l'ha messo verniciato, mi ha messo un paraurti nero verniciato, nuovo. Però ripeto, io le fasce nere, quelle proprio paraurti anteriori sono smantellabili perché si possono spostare, ma la posteriore è tutta passata. Tanto non ne ho mai visto, te ne faccio vedere davanti le cose, muso, mai, perché io li ordiniamo tantissimi, ci abbiamo il dischetto dove ci sono tutti i particolari, le modifiche, eccetera, eccetera, però non mi risulta a me. Se ce l'hai vuol dire c'è qualcosa di strano. Gracias. notte sotto c'è il cofano. Fino al bordo, ho dato soltanto un'ora, mi è uscito tutto. Beh, presente che nei mordi non c'è superficie d'appoggio, per cui la vernice che misura lo stretto del micron è sempre inferiore alla parte centrale dove si riempie di più di materiale. I mordi per logica ce ne sento di meno, però se tu prima di verniciare ti fai bene bene i mordi, quando uno c'ha la mano si fa, infatti mio padre dice sempre, si inizia sempre dai mordi ai verniciatori quando li insegna a verniciare, iniziate sempre dai mordi e poi riempi il centro, così sei sicuro che l'ancoraggio è superiore. Io consiglio sempre così, o acqua di macchina adesso, se tu vedi la Panda, quando io l'ho fatta reclamare, che era funzionantissima perché aveva appena rifatto il motore e tutto, e questa, la Panda era 100 metri, molto meglio, si sta arrivando. Siamo da, ti saluto con la bambina, se non va a dormire. Ciao Romeo, scusatemi, ciao Gianni, Mario quando rientra, Luca se l'ascolto, tutti quelli che sono l'ascolto. Sentiamo, adesso la bambina non va a nanna. Gianni, ci si, batti un colpo. Ci sono, sì. Stavo cercando il microfono, ma lui non riusciva a trovare. Non riusciva a trovare il microfono? Al buio. Ah, al buio stiamo trovando, che cazzo. Al buio che si chiude più con là, anche per lui. Ci sono, che bello. Guarda, se ti muovi allora quegli apparecchi tutti illuminati con il gol, no, anche io quando c'avevo gli amplificatori, quelli belli tutti illuminati, io sono Marans, bello tutto azzurro, potremmo spegnere la luce per vedertelo al buio, però non lo facciamo, non è la stessa cosa. No, non mi piace, perché c'è nessuno che conosco a noi, sono già, ma c'è un inviato di secondo me. Vabbè, non per provare a vedere se riesci a trovarlo su internet, io non so se riesci a trovare il metodo di istruzione. Ma l'hai fatto tu il conto, manuale d'uso e l'apparecchio, cos'era? Ricordavolo sicuramente un bis. E beh, non l'hai trovato nel motore di ricerca su Google? No, manuale d'uso l'ho trovato, messo qua, eccetera, eccetera. E ha parlato. Prova a mettere manuale d'uso. Io l'ho trovato del pass, però non sono riuscito a caricarlo perché qua a casa non c'ho il software che me lo legge. In officina ce lo devo fare la prova in officina. Non dico che sei tu, non sto parlando di te, già, Romè, io non sono mai andato da nessuno a farmi fare preventivi, perché io avevo amici carrozzieri, poi non hanno fatto più il carrozziere perché purtroppo gli sono successe cose in famiglia e via dicendo. Però io quando ho avuto il danno, perché tu sai che molte volte c'hai un danno o ti fai rimorchiare da qualcheduno, la prima officina che trovi, la pigli, la porti lì, quanto ci vuole, tanto vabbè, fammela. E poi quando vai a ritirare gli dai su, gli ti porti via la macchina, al momento o perché è buio, o perché è quello, perché è quell'altro, molti li pigli, non li vedi. La guardi lì domani mattina, alla luce del sole, vedi o sa quelli di tinti. Vai, glielo dici e dici, ma non è così, ma non è colà, e ti trovano 10.000 scuse, però i soldi li hanno pigliati puliti, capito? È come che io venissi da te e ti dico, quanto ci vuole per fare questo? Poi tu mi dici, tanto, vabbè, falla. Poi magari vengo a ritirarla di notte, ok, quello e quell'altro, e molte cose non si vedono, la mette la luce del sole e poi si vedono. I difetti, vengo da te e ti dico, guarda com'è questa remiciatura. Ma sai, ma boom, ma l'unica cosa, secondo me, è fare come fanno le concessionarie. Perché mi sembra che siano le cose più sicure, perché uno va lì e ti danno la garanzia di 6 mesi su quello che è stato fatto. E così dovrebbero diventare i carrozzieri, secondo me, perché la parola per molta gente mi sembra che non ha valore. Guarda che per legge traggono i carrozzieri la garanzia, cioè c'è una legge specifica, c'è un anno di garanzia sulle lavorazioni, ma non che tu non lo dici esattamente 6 mesi. Ah, cappa, no, io no. Allora, io ho portato la macchina all'Alfa Romeo, ho fatto fare la pressione e poi mi avevano cambiato dei cosi lì, siccome ci abbiamo, nella 55 ci abbiamo dei relay e dei cosi che rimangono proprio sotto la cosa dell'olio dei freni. E qualche volta te ne scende qualche goccia d'olio, ok? E con l'andare degli anni giustamente si corrode. generazione che stanno almeno 2 anni, è venuto qua e mi ha detto guarda il paraurti che mi hai fatto tu, tutto spaccato, tutto brutto. Lui aveva preso un colpo, io gli ho spiegato qua tu hai preso un colpo dietro, come hai preso il colpo si è sfilacciato la verniciatura e poi si è andato alla lavaggista, ha usato le pompe a pressione per averlo staccato. Io in ogni caso gli ho riverniciato il paraurti. Dopo, quando lo stavo preparando, che ho dovuto staccare tutto, tutto il materiale, mi sono accorto che questo signore si aveva fatto fare lavoro da un'altra parte, ha fatto il fumo, però gli ho fatto lo stesso lavoro. Questa settimana è venuta una cliente, ho trovato un'amica, che era successo lo stesso problema, però questa non l'ha fatto nessuno, ha sfogliato il paraurti e gliel'ho rifatto di nuovo, stamattina l'ho consegnato. Dovrebbe essere la volante, ma sto guardando adesso per dire. Comunque ho 5 dB come guadagno. segnale, però la radio è buona, è comprensibilissima, 5 tiro di radio. Vabbè, quello sei tranquillo fino a un certo punto, perché magari in una situazione diversa da quella che può essere, per dire, la mia o quella di Gianni, non lo so. Beh, capo, io ci sono già passato, metti caso che mi dovessero rimettere nel mirino. La prima cosa che direbbero, perché lo direbbero tutti, dice, ma non è un'abitudine, capito? Non è che sia per cattiveria, per quello o per quell'altro, però quando uno ci passa, che si vede scocciato dalla mattina alla sera, mesi, giorni, anni, poi fai un processo e sei col culo ben stretto, perché il culo ti si stringe, perché no, cioè sembrano fesserie, però poi a un certo punto non sono più fesserie, il muscolo ti si stringe, è alla grande pure. E caspita, già non credo, tanto già sono pochi le preoccupazioni e le eventuali multe che ti mettono se per caso fai qualcosa che non deve essere fatto. Purtroppo le leggi ci sono e vanno rispettate. E gli avvocati no. Avvocati. I piccoli pesci non vengono cercati, a meno che non fai qualcosa di grave. Cercano i pesci grossi, quelli che escono con potenze esagerate. Non è quello, no. Non è le potenze esagerate o quello o quell'altro. Dipende pure da che cosa si trovano, capito? Non è detto che perché. Loro una volta che vengono a controllare, è come hai detto, se va per un uomo di Pasqua, non sai quello che c'è dentro, perché lo puoi trovare di muta buona, lo puoi trovare di muta cattiva. Metti che la volta mi sei stato con la moglie o col figlio, c'è la tua casa tua con le cose girate, e tutto quanto quello che non è tutto quanto fuori dalla norma. Beh, che cosa gli dici? Gli dici il contrario tu. Lui intanto scrive e poi se ne parla in diverse sede. Il discorso è tutto lì, non è che uno dice io me ne prego, perché che cosa te ne freghi? Ti trovano un apparecchio che non è omologato, ti guardano il canale in che posizione è, ti guardano con quanti vatti esce, ti guardano tutto quanto, hai capito? Ti guardano per dirla in corto, ti fanno la radiografia anche al buccio per vedere che condizione ce l'hai, così che ti ho detto tutto. Ma no, no, scusate, ci avevo si è attaccato il cavo dell'alimentatore. Certo, ma perché non gli dà la tua? Cosa stavo dicendo, beh, è così come sta dicendo Mario. Sì, sì, sicuramente, ma naturalmente deve aver fatto qualcosa di grave, non penso che mi regalano partire le scatole per una chiacchierata che stavo facendo tra amici, così, no? Beh, Mario, per dire, di grave non ha fatto nulla, mi hanno segnalato solo di quelli di intorno perché faceva tribunale. Sì, vabbè, quello, diciamo, una cosa sta disturbando se non prendo un servizio pubblico, ma adesso Mario si è messo a posto, tu sei a posto, io sono a posto, diciamo, da quel punto di vista non credo di avere problemi. Certo, sono andato a fare lo scemo, a dire parolacce, a dire di parlare male di quello, di quell'altro, a disturbare, a quel punto certo che c'hanno ragione a venire a cercarti. Non c'è più la luce, che non tutti. Così dice. Te lo confermo, te lo scrivo pure. Vabbè, noi, almeno dal punto di vista mio e di questi due che stanno parlando adesso e a te compreso, non stiamo facendo niente di illecito. Stiamo utilizzando apparati omologati, con potenze limitate, entro i limiti di legge, stiamo parlando normalmente, non credo che vengano a rompere le scatole a me. Vabbè, allora tu devi capire che quei signori non vanno più da soli. Se tu adesso non c'hai concessione, però io ho ancora la vecchia, se mi capita te la faccio leggere, ci sono scritti tutti gli articoli di legge e c'è scritto come ti dovresti comportare. Allora, a casa tua, o a casa di chiunque ci mi, non a casa tua, a casa di chiunque ci mi, si presenta il funzionario delle telecomunicazioni con la polizia postale. non ne usi. Io ho conosciuto uno, non ti dico il nome perché, ma Claudio mi sa che lo sa, perché è una storia vecchia. Allora, questo qui gli hanno regalato una cosa, che era non funzionante, però non era né denunciata né niente. Quando gli sono andati a fare il controllo, gli hanno trovato nascosto. Se ti vogliono fare male ti fanno male in ogni caso. Vedi Gianni? Ma che è terribile. E beh Luca? E me. Ancora vivo? Io sempre. Ti sto sentendo sempre di meno. Questa passa una fantasia, mi succhiano, sto picchiando a me diviso. E vabbè, tutti lì, dai, si vive la giornata. Via, per carità, meglio niente. Dipende Gianni. Va bene, già sto qua, non c'è problema, già rimasto qua, pare non me le chiede, pare non mi domanda, cos'è già, che è un casino, sembra così ma è un casino. Mi sta anch'io, dimmi, poi dimmi, non c'è niente da nascondere. Che hai fatto? Quando vogliono venire la porta è sempre aperta, non c'è problema, non devo nascondere niente. Quindi sono stato per rotture di scarpe, capito? Lo so già. Ma quello è lavoro, le fanno loro. Se non fanno quello, cosa fanno? Stanno avendo fatto la scatola. È bello, ci si fa con la scena l'altro giorno. Non me l'hai compreso. Ho capito che lo 24 ore 24 la scatola. Oggi si spacca con la schiena. E mi fumo una giretta, mi si gocco qua. Mi stavi ascoltando Luca, così è. Ma io sono tipo ieri sono diventato per ore 9:30 mi sembra. Io le 10, stavo ascoltando, non sono anche entrato. E poi ascolto tutto e mi sono dormito. No, sto parlando di oggi, stavi ascoltando qui. Ma oggi non avevo luce, siccome stavo facendo un impianto nuovo qua vicino dietro a casa. E hanno staccato la luce per 2 ore, mi sembra, 1:30, 2 ore, non c'ero. Cioè, mi sono rimasto a casa, mi sono messo la luce, sono uscito. Sono fatto fuori, a prendere un po' di sole. Ma ditemi una cosa, ma questi discorsi che stiamo facendo adesso si facevano anche anni fa o adesso più di prima? Sì, c'è sempre stata la... questa cosa qua che girava, ma di parlare di altri anni quando lavoravo io non se ne è mai sentito parlare. Tu, forse c'era gente più intelligente di adesso. Qualcuno faceva qualche registratore per dire la paletta, per dire la faceva sentire per farlo incazzare, così, però più di tanto non l'ho mai sentito. Io mi sentivo tutti i canali, nel Mobicom, anche nei canali nel 41-42, capito? Mi sentivo anche lì, figuratevi, vedete voi. Ma in che senso? Mi sentivo bene sui 41, sui 42, bene, tutti i canali. E cazzo vado oltre, bene. Anche io mi sentivo. Ma sempre per parlare. Ma cosa mi gioco, bro? Ah, dice Vittorio è fuori frequenza, no? Dammi. Tu che è venuto la 2001? A me è stessa. Qua è nuova, con 24 mesi di garanzia, 49. E io so, più i soldi per la spedizione. di nuova, ho dato a pochissimo, 20 euro l'ha pagata. Nuova, nuova di nuova fiammante. Siccome lui ne ha un'altra, che gli avevo fatto prendere a mio fratello, che non se ne faceva più niente, gli avevo venduta, addirittura gli avevo dato due, però con una base magnetica solo. E siccome non se ne fa più niente, ha trovato la regala a me. Anzi, la prendo e cambio il cavo, poi c'è a cambiare il cavo, la starò bene. Allora, per fortuna non me la uso. La moto della moto. Però in cabo, cos'è nella moto? In cabo. Ma quale si sta dando? Mi ricordo il nome, la. Aspetta. La Lem mi sembra. Questa è la Lem Turbo 2001. Questa la fa la Lem lo stesso, però non mi ricordo il modello, che modello è. È magnetica. E vuole messa a posto sotto, che praticamente non c'ha. È la spaccata, la pasca che c'è sotto, con un graffio alla capotta. Siamo un po' sui, sono piano. Comunque, se c'ha 6 decibel di resa con l'antenna, rende meglio del dipolo che utilizzi tu, Luca, lo sai? Boh, mi ha detto che se la vendeva, la trovo non te la regalo. Cioè, in garage ha messo il micro suo che abita lì a... non capo si chiama... un posto, non mi ricordo, Bancalia, Sant'Orsola. È stato una mattina, anzi sabato ci va, perché sabato non lavora questo. Scendeva alla porta, me la metto a posto, e poi quando io sto per la vetra, non è che... niente, è volta ratta perché c'è la meditazionale. Gianni, oh, sei decibel e mezzo, sa. Si è fatto, dice, da 3 mesi. Perché non l'hai vista? Ma sai cos'è lui? In camion, con la antenna lì, è un casino. Se è passato le gallerie e tocchi. Ehi, si bide, siamo quanti e puca di sidronca. No, ne ho visto tutte sfrontate io. Tutte sfrontate, tutte in mare in luce. Scappa, e poi passano lì, e poi scolano le passano, tocca. Anche magari a fare uno scarico, secondo me devo passare, tocca, perché è troppo alta. Comunque un'antenna è la migliore che c'è in commercio, la migliore che c'è, tutti i camioni si hanno quella. Tu capire che quella magari ti rende, ma non so se sono quelle là, non so se ci via adesso. No, 6 decibel e mezzo è assurdo, è una cosa esagerata di rendimento. Ecco, la Gran Pelle ha 0 decibel di guadagno. Ma ricordi quella con le radialine? Ehi, come la forza? Io ho avuto quella grande, con i radialoni, 275 l'uno. E poco buntava il champagne. Forse la mia era anche la zona favorevole. Allora io ti dico già, la mia 27L, ti dico che un'antenna lì era un bombo. Facevo sentire da 3 parti. Che antenna era lui? Via 27L. Ma come era fatta? Era all'incirca 6 metri, 5 metri, 3 radiali. Come tipo la mappa, guarda, la 3 radiali. L'attacco laterale però c'era. Ah, e di che casa era? Guarda, il mobile a Camingiosi, non mi ricordo che mi avevano venduta, era nuova l'antenna, nuova, non lì è nuova. Era attaccata lì al, come si chiama, al, ma, dove c'è l'antenna TV adesso, era lì. Stava bella, era, perché l'avevo bucato, siccome un buco, erano dritti i buchi, l'avevo bucato, è stata una staffa, e poi non te ne va più, allora ho dovuto spostare appena. E poi c'era un palo di telescopico di antenna TV, quelli che si chiama per l'antenna TV. E fine. E sono abbigiato infatti. Per carità. E poi mi sono fatto ingaggiare subito. Mi sembra che avevo dato tutto, avevo dato Malacchino, Lafayette, il Texas. Era, lo dico nuovo, ma andate, diciamo. Con l'antenna lì ho trovato appena un drago, e tu mi chiedi, adesso devo smontare tutto quanto, oppure mi sono un alimentatore, non mi ricordo bene se mi avevo fatto 100.000 lire. Hai fatto un affare. Sì. E vuoi cosa di più? Sì. Lui ha fatto l'affare. Lui cercava sempre affari. Cazzo. L'officina oggi mi ha fatto un contenitore per metterci un alimentatore, così lo utilizzo per, la, per il baracchino per il Midland, e questo lo tengo attaccato al coso, al portatile. Un contenitore ho modificato, l'ho tagliato, con la piegatrice l'ho piegato, adesso lo fa lì fuori e li metto l'interruttore. Avevo un alimentatore vecchio, grosso, era mezzo tutto un mezzo di facciato, adesso domani lo saldo, li saldo i componenti che si sono rotti e lo provo. Ce l'avevo da un sacco di tempo, dovevo fare questo lavoro, non ho un attimino di tempo, oggi mi sono messo un'oretta e l'ho fatto. Domani devo saldare quei componenti e lo vediamo se funziona. E poi ne uno grosso, però quello devo farmi aiutare perché è un po' complicato, sarà al minimo 30 ampere quello. Scappaga pure. Qui inizia la mano. Sempre modificando, sai, Romè, sempre inventando, sai. Oggi sono entrato su internet e stavo guardando questi di progettazione di dipoli. Tanto c'è un'antenna che se la vedete si chiama, aspettiamo dire, aspetta, non mi ricordo il nome, comunque è fatta con un barattolo, c'ha una resa di 8 decibel, costruita con un barattolo, tu ce la vedi e dici, ma è roba di fantascienza. E dove l'hai vista questa? Ma sono il motore di ricerca di polo, costruzione di poli, ce ne sono antenne di tutti i generi, di tutti i tipi, ce n'era una, questa fatta da un radioamatore, una specie di tubo, ma tu devi vedere, tutta spiegata, allucinante. Quella lì addirittura tira fuori 12 decibel di guadagno. Però la più spettacolare è questa fatta con un barattolo, ha usato quello del caffè, non so cosa, c'è tutta la fotografia, ma è una cosa allucinante, se la vedi fa ridere. Magari funziona meglio delle altre. Bravo, io vi saluto, ciao a tutti, buon proseguimento. Ciao. Ripete la roba. Alla prossima, ciao. Ciao Luca. Stavo dicendo già, tu devi vedere questi radioamatori, gente che fa collegamenti con posti allucinanti, che neanche ci immaginiamo, che antenne usano, ci sono le fotografie, tutta roba autocostruita, a cose che neanche ci immaginiamo, non abbiamo mai visto antenne di questo genere, dei tubi, delle cose allucinanti, cioè io ho sempre visto le antenne orizzontali o quelle verticali a filari, eccetera, eccetera, degli aggi, ma non abbiamo mai visto costruite con dei tubi fatte così, ma tu devi vedere con delle lamelle di rame, piattine di rame, ma fate delle cose spettacolari. Passò, io ne ho visto di antenne autocostruite, c'era anche come si costruiva e tutto quanto. Tutto quanto, consiglio come ha fatto a costruirla. Sì, quello che sto dicendo io così, ci sono tutti le cose, prima c'è tutta la teoria, addirittura te li puoi scaricare, ci sono un sacco di pagine, e infatti me le ho segnate in questi siti. E poi c'è tutta la spiegazione, ma fatta da ingegneri, gente che proprio ci studia dei personaggi, cioè delle persone che hanno delle passioni e fanno esperimenti. Ma ti sto dicendo, quella di oggi era micidiale, non sapevo neanche esistessero questo tipo di antenne. Un barattolo, proprio un barattolo di caffè lungo, non so che caffè era, mi pare, non mi ricordo neanche, c'era anche la marca del caffè. Sì, una piede mi sono fatta da bulloni e così via. Come fa l'avete sentito? No, dai, attimo, stamattina l'ho sentito, ma c'era no. Ma la cucina sotto, non c'era, andata. Addirittura Gianni. Dimmi. Questo qua che ha preso un'antenna tipo quella che avevi, che stai dicendo tu, la Turbo 2001, non era un altro modello, l'ha smontata, ne ha tolto la carcassa dell'antenna, l'hai vista che c'è una specie di avvolgimento all'interno del vestito, l'ha smontata, non so che cavolo di modifica ha fatto, non so quanti decibel guadagna, con quell'antenna ne ha messo un altro circuito dentro, non so che cosa, e ti va a migliorare non so di quanti decibel il rendimento. Ma è ricezione o trasmissione? No, sia ricezione che trasmissione. Ma proprio l'avevo fatto bene, tu devi vedere la tuta aperta, infatti c'è tutta la bobina, l'avvolgimento, e ha utilizzato il cavo, ha modificato lo spessore del cavo, non so cosa ci ha messo, e l'ha tagliata per la frequenza che deve lavorare, l'ha fatta proprio specifica su quella frequenza, e si dice che spara che è una cosa allucinante. Ce ne sono che sono appassionato. Scusa, Claudio, ti volevo chiedere una cosa, cos'è questo wifi, cosa vuol dire? Io. Cos'è? Leggendo questa antenna Wifi, è scritto WIFI. Cosa vuol dire? Non lo so. Infatti con un sistema di trasmissione dice Wifi, fate tu provate a qualcuno che se ne intende. Ci sono i siti di questo sito, www.radiamatturi.com, una cosa del genere, c'è questo tipo, questa associazione che sono venuti qua in Sardegna, hanno fatto una spedizione eccetera eccetera, ci sono tutte le zone, hanno fatto vedere dove sono andati e c'hanno delle postazioni sperimentali che se le portano appresso. Normale. Sono venuti qua in Sardegna, si sono piazzati in questo monte di Gesuri, non so di che zona è, brutto ai Cagliari, poi sono andati a Santa Cristina e hanno piazzato la postazione mobile. Normale amministrazione per noi. Sì, vabbè, la diamatura lo fanno per sperimentazione eccetera eccetera. Però è una cosa molto bellina, diciamo, si sono messi d'accordo un gruppo e sono venuti in Sardegna, che esita in Sardegna. Non è un gruppo quello. Sono le sezioni che decidono di fare quello, come un gruppo usci da Milano. Infatti con qualche sezione non so cosa sia. Dipende, vai, no. No, ci sono solamente quelli che vengono dal continente, no? Ci sono anche radioamatori, i nostri radioamatori che partecipano perlomeno. Io ne ho sentito dire tanti che dovevano fare i punti, adesso non mi viene il nome, che andavano lì i transponder, i cosiddetti transponder. Davvero, perché ne conosco di invece degli amatori, che fino a qualche anno fa ci trovavamo, ci facevamo la chiacchierata, adesso è un po' di tempo che non li vedo perché loro sono pensionati e con questi giorni freddi non escono, rimangono a casa al caldo. Aspettano la bella stagione per fare i collegamenti a lunga distanza, va bene che li fanno tutto l'anno, però alla bella stagione se ne vanno fuori, si cercano una posizione ideale e poi trasmetto. Mi avevano detto, io avevo trovato un porto lì andando verso, diciamo verso l'Argentina, in quei punti lì, avevo trovato un porto dove c'erano dei tralicci altissimi che però non c'era niente e poi parlando così avevo scoperto che lì c'erano dei ripetitori e degli amatori e c'era anche qualcosa dei vigili del fuoco e niente, che però adesso praticamente è terra bruciata e non c'è più nessuno e non se ne occupa più nessuno. Sì, quella dell'Argentina era un po' ripetitore per la TV, non c'entrava niente, non era roba radio. No, c'erano anche quelle radio, che io giravo siccome quando ero un po' più giovane, diciamo così, qualche anno fa, mi piaceva anche conoscere parte della Sardegna e mi facevo i giri, poi sono capitato in quel posto lì, che adesso mi apre la testa a ricordarmi come si chiama. Non ci riesco, però c'era questo traliccio e niente, usavano per mettere i transponder, boh, non me lo ricordo come si chiamano, comunque era tutta roba radioamatoriale. I transponder non si possono mettere su fuori legge. Ma lui rimane dietro di esaurire le rete. Sì, vabbè, c'erano il decimale, ma non si possono mettere i transponder. Cosa che è tantissimo a trasformare. Allora, mi hanno informato male o ho capito male io? Io non adesso le feci male. Si parla di link, non di trasformare. Quello che facciamo le concessioni sono, non c'entrano niente, né link né trasformare. Delle spedizioni per sperimentare zone, per fare prove tecniche. che con le quali sentivo. Più o meno. Poi ricevono, devi ce ne sono più di una di antenne. Ciao. Chissà, ma cosa, la veloce è zona buona, non ne sono mai da antenne, se vai in giro ne ho visto diverse. Ecco, è positivo. La veloce ce ne sono, guardami, una, due, tre, tre, quattro, quattro, cinque, sei, sei, sette, otto, nove, dieci, dieci, sono nel mio raggio ce ne sono una decina. In attività quanti ce ne sono? Due o tre, boh. Beh, in attività modulando ci dovrebbe essere solo la mia, perché le altre credo che mi sono meglio a fanno ascolto, perché mi toglie non sta più entrando, quello del palazzo rosso non sta più entrando, quello sta fianco a me non sta più entrando, quello dietro di me non sta più entrando, quell'altro ancora sempre dietro di me però nel palazzo più alto non sta entrando, o quell'altro non sta entrando, vuol dire che non sta entrando nessuna frequenza. Perché più su c'è il passero, non è così? Capitato non riuscivo a dormire. Dipende Mario. Dai, cappagatta. Oh, io non lo so, non ci ho mai provato. Bisognerebbe che ci provassi. Però non mi è mai capitato di sentire qualcuno dicendo che senza calze uno non si dorme. Perché, non lo so. Basta fare la prova. Solo che ti consumano i bili, secondo che camion c'hai che devi schiacciare la frizione, un poco di consumare i bili al coso, al incubatore dei bili. Ma non credo. Guarda che come guidare la vettura, nella vettura quante volte l'abbiamo guidata scarsi. Io ho guidato pure il bili scarso, senza le scarpe, perché nel periodo caldo, diciamo così, mi davano fastidio e mi piace più uscire con le ciabatte, però le ciabatte non si può guidare, allora le ciabatte le mettiamo da una parte, perché se ti ferma la polizia che ti trova a guidare le ciabatte ti fa fermare, e allora le scarpe le togliamo e guidavo scarso. Infatti è un controsenso, la legge ti vieta, quando l'ho fatto il dottor legge ti vieta di utilizzare le ciabatte per guidare, però si sono dimenticati di scrivere che non si può guidare scarpe, hanno fatto vedere la televisione, è proprio una beffa della legge. No, perché la sensibilità ce l'hai sempre nei piedi, capito? Invece le ciabatte ti possono uscire, si possono sfilare, si possono mettere di traverso tra i pedali, possono succedere tante cose, invece i piedi sono tranquillo che non si incrociano. Ma non sto parlando di sensibilità, di scivolare, perché se sei asciugato ti si fuggi i rubini, è per quello che sto dicendo. Cappagatta, ma è sempre più pericoloso con le ciabatte che con i piedi scarsi. Le donne che guidano con i tacchi non le hai mai viste, eppure la legge glielo permette. Cappagatta. Qui avete parlato in due, una frazione di secondo. Con chi? Con Gianne? Immagino con Gianne perché sentivo uno parlando, però non si capiva, tu eri più forte. Gianne! Ero io, confesso. L'uomo sotto di te, Mario. E le volevi sempre abbandonare? No, no, è stato il volontario. E ma io sono con l'uomo gatto, capito? Sono tranquillo, con l'uomo gatto. Anche io sono tranquillo, con un omologato. Attenzione che c'è il bollettino del nostro Fiorentino, stiamo trasmettendo canale 10 27 075, stanno modulando i signori Gianni Doppio Lumo, Mario Manzel e Roberto Quadrato. Chi vuole ascoltare ascolti, gli apparati che stiamo utilizzando sono apparati omologati. Cappagatta, guarda che a me mi è sembrato di sentire qualcuno che stava dicendo Roberto Quadrato, tipo di tappera. Adesso non so se Roberto sta parlando in un altro canale senza del blatter o niente. Vabbè. Sì, ma forse mi hanno parlato sopra a me, qualcuno più forte di me, infatti me ne sono accorto. Quel ripeto se non avete sentito, avete sentito o no tutto il discorso? No, io ho sentito quando stavo modulando Gianni, ho sentito Roberto Quadrato, tipo di tappa, però poi non ho capito più nulla perché Gianni ha smesso e non ci ho capito niente là. Ho detto, stiamo riepilogando, stiamo trasmettendo sul canale 10, modulando sul canale 10, ovvero 27.075, sono l'orario esatto, non lo so, sicuramente sono più delle 11, e stiamo modulando in compagnia di Roberto Quadrato, Mario Mansell e Gianni Doppio Rumo. Chi vuole ascoltare, ascolti. Ehi, cappagatta. Mamma, vabbè, lasciamo perdere, va, perché sennò ci ripetiamo. Comunque, io momentaneamente sono ben tranquillo, poi chi vedrà, vedrà. Caffa, riprendi Gianni. È del muso che c'è un po' malato, c'è la quella. Ui, ai, ai. Vecchio visuale. Ma va, inizia il periodo di crisi. Gianni, cos'è che fai? No, non c'ho niente. Solo che sono cose che danno fastidio, capito? Oh Gianni, così cambiamo discorso e ci mettiamo un poco più di amore. Allora, il tempo porta consiglio. Alle 4 e mezza esce e poi alle 5 e mezza va all'allenamento del pallone. il materiale giovedì questo qua. Io dico, ma quando recuperi già nelle condizioni? Io invece poi liberi la mattina sono freschi di nuovo. No, sono fisco, non sono. Quando sono piccole sono così. E da chi la tornata me l'avete da chitarra, la macchina ferra. Guarda, non lo so. E la scuola, lo sta facendo tutta la scuola, è una. No, maestro Serra è cantante, avrà 80 anni adesso, maestro Serra. Questa è una persona a occhi a croce, ci avrà 60 anni quest'uomo, un tipo bassottino con i capelli bianchi, con gli occhiali. L'ho visto una volta solo, fanno tutto dalla scuola. Maestro Serra è stato il mio maestro, lo sai. E che tale da subito? No, no, maestro a scuola. Non ho capito, scusa? Alle elementari. Tutti andavano da maestra Serra, ma tu a San Giuseppe perché hai studiato? Mi ha lasciato un cuore. No, perché quelli di San Giuseppe andavano tutti da maestro Serra, era nominato, cazzo. Quando c'era l'obiettivo sale era andato il cottage. E lui andava sempre di lì a suonare, con Gianni Lisis e l'altro come si chiamava, boh, non mi ricordo. L'altro Serra non è un maestro di scuola, però, alle elementari, capito? Ci è comunque quell'uomo ha detto che io penso che avrà 80 anni. Penso di sì, allora è andato a trombone. Ma è ancora vivo? Io l'ho nominato perché sapevo che era un bravo maestro di chitarra. Sì, poi ci facevano, faceva pagamento però lui. Questo dalla scuola non si paga, sono quelle attività extrascolastiche, puoi scegliere tra fare musica o fare computer, vabbè computer lo fanno già normalmente, ci sono altre cose diverse. Da. Guarda che Marcolino in classe, che era all'asilo, scuola materna, dice lui, ha dei computer. Anche alla scuola materna? No, no, loro iniziano dalla prima elementare, stanno iniziando. La piccolina, la grande, quella lì a 3 anni stava già giocando col computer. La vedete, infatti rimaneva a bocca aperta, salvando, facendo. Questa piccolina del computer non gliene ha futti brutti nulla. A me a lei le piace leggere, disegnare, cioè fa delle cose che l'altra non faceva. Allora dal computer tutto non gliene ha futti nulla. È fissata con i cartoni animati, con le cose lì, sta ora intera, la puoi lasciare lì, si guarda i cartoni animati. Marco è molto bravo a computer, sa fare un certo di roba, si mette la musica, cambia grafici, chiappa le cartelle, e non sa leggere, capito? Lui perché scrive, sa già scrivere, non ha ancora 5 anni, sa già scrivere. No, quelle ragazze adesso sono molto più precoci perché sono stimolati molto di più di che eravamo noi. Noi magari eravamo intelligenti allo stesso punto, però non avevamo stimoli, per cui era diverso. E quindi io voglio sempre scoprire, papà mi dici come si scrive a casa? Tu mi scrivi la palazzata, lui la copia. E qui ce l'ho scritto bene, sì. Caspita, siamo così bambini. Questa qua invece l'aveva presa per altri versi, questa bambina, per il disegno, per altre cose. Figurati l'anno scorso, lei di dicembre, dai, è entrata in anticipo rispetto alle altre a scuola, perché 4 anni le ha fatte a dicembre, per dire, gli altri sono tutti bambini più grandi, c'è gente che è dell'ultimo anno, perché sono quelli, cioè sono sfasati in questo asilo. L'anno scorso la maestra mi ha chiamato il preside, mi ha fatto vedere, guardi sua figlia, l'ho voluto prendere, il coso suo, i disegni, tutte le cose che ha fatto lei, l'hanno portato non so dove, per dimostrare la scuola, i progressi dei bambini. È rimasto meravigliato, ci ha chiamato il preside a mia moglie per controllare, eccetera, eccetera. Questa libera di disegnare, inventare, te la senti negli angolini, si mette, si piglia la bambolina, si fa tutte le storielle, si inizia a parlare, a fare, e vai in una bicina manna. E così era Manuela la piccola, lui faceva baciare le bambole qua, non mi ricordo come cavolo si chiama, Billie Jean, faceva lettere dell'amore, roba del genere, di amicizia, proprio riuscì a dire come cambiavano le voci. Niente, questa qui è così, tu la vedi in macchina e dico raccontami la storia, inizia a inventarsi le storie, ma così al momento io rimango a bocca aperta, dico ma va una fantasia questa bambina, anche la maestra me lo dice, l'altra invece era altre cose, è specializzata in altre cose, cioè cose di, totalmente diverse, e quando c'aveva fino a 6 anni le bambole non le voleva neanche vedere, la grande diceva ma è possibile tutte le bambine alle bambole, non gliela futtia nulla, a lei gli interessavano altre cose. Tu pensa che quando siamo andati a Gandala abbiamo deciso di andare un giorno a Venezia e abbiamo preso il treno da Peschia a Bregano, abbiamo preso il treno, siamo a Venezia e saluta questa signora seduta nella nostra cabina dove c'eravamo io, mia moglie Manuela e Marco mio piccolino. Pensa che Manuela comincia a fare queste domande a questa signora. Per dirci come si chiami? E le dice il nome. E io, Manuela, tu entri da un fortuna della gente. Emanuela, ascolta, mi dici che lavoro fai? E lei, sono giornalista. Sono una giornalista della RAI. E dice, e quindi che cosa fai? Dice, io vado, faccio le interviste, faccio i servizi, lo sai che mi ha fatto anche una in Sardegna? Tu sei sardo, ora le vedi, ha detto sì. Dice, mi ha fatto anche una in Sardegna vicino a Olmedo, per la storia della borsita, roba del genere, no? Ha fatto un servizio. Poi questa parte di attore ci ha detto, avete una figlia molto, ma molto intelligente. Cercate di valorizzare questa sua intelligenza, iscrivete a scuola di canto, di recita, di cose, perché uno che si sa esprimere in un modo particolare e poi a molte volte socievole, ha voglia di fare. E ci ingaggiatela nelle cose perché ha molta voglia di fare. Questo l'ha dimostrato anche a scuola, che è una delle prime della classe. Ciao, ma quanti anni c'è la tua figlia? 13. Senta, sono media. Quindi è già grande, sarà una signorina, sarà. Sta cominciando, diciamo, a entrare nell'età, è una signorina. Vabbè, ma io detto no. Facciamo un gabbo. 2600 ci ha rovinato due cellulari, anzi tre, buttati nell'acquario, l'acquario uno nell'eccessivo dei piatti, l'altro lo stesso lo ha buttato nell'acqua, insomma tre. Thank you. cucina già grande lo stesso, è una cucina grande. Noi soggiorno non abbiamo fatto tutto quanto la cucina facciamo. Ecco, pagata. Adesso vedo un po', ma no, forse non conviene toccarla, perché così chissà quando è grande, se si sposa, almeno c'è già la casa mio figlio. Qui ci abbiamo tre camere da letto, ci sarebbe la sua, la mia, e poi eventualmente se arriva a mettermi i guti ci sarà anche la cameretta per loro. Se non l'intenzione era di buttarmi giù il tramezzo che c'è nella cucina, ma tu cosa c'hai? Un soggiorno, oltre alla cucina, dove mangiate? Cucina? Detto cucina, ma se ci sono ospiti nel salone li sai mangiare? Vabbè, certo. Allora io gli ospiti li dai massima, li ho sempre fatti mangiare in cucina perché è grande, la cucina è grande e abitabile, però quando per dire capitano che ho natalizio che inviti più gente, adesso abbiamo questo salone grande, enorme, che ho chiuso, dove c'era una terrazza enorme, e di lì li facciamo mangiare di lì dentro, ma quello è grande il posto. Ecco, però io c'ho un tavolo di 2 metri, e niente, il salone è sempre sì, così che uno al limite in cucina su cucina il salone si mangia. Allora, vabbè che adesso già non, ospiti già non arrivano perché la coca non c'è più. No, vabbè, anche io ospiti, preferisco andarcene tutti insieme a mangiare una pizza, una cosa del genere. Però a Natale, diciamo, il periodo natalizio, ogni anno invito gli amici, i parenti iscritti e facciamo qualcosina. Ecco, ragazzi, si può. Una volta all'anno, non è che lo fai tutti lì. Qualche volta capita magari che la pizza te la mangi in casa, adesso siamo già un po'. Inviti qualche amico, così io ci mangiamo una pizza in casa, qualche festicciola di compleanno, ma niente di più. Vabbè, quello sì, no, io quando è il compleanno del mio figlio, cioè se da quest'anno glielo fate al ristorante, pochi amici e via. No, no, il ristorante è lungo, lasciamo aperto. Ah sì, vi faccio una festicciola alle bambine dentro casa. Vengono accompagnati di scuola, qualche parente, basta, niente di più. Eh sì, così è. Così va. È vero, no, io fino adesso io ho fatto andare al ristorante perché giustamente vai, diciamo questi due amici di scuola, è questo, è quello. E siccome è una festa sua ciccia. Vabbè, poi più grande diventa, poi alla fine le feste si rimane con la Beghisoli dopo che vogliono loro. Vabbè, la vede mese insomma, ne pare che se non le mando tu, che domani bisogna travagliare. Cappa cappa, te lo stavo per dire io. Vabbè, ti saluto Mario, ciao Gianni se stai ascoltando, ciao Claudio anche a te se ascolti, alle prossime, buonanotte e buon lavoro per domani, ciao ciao. Ciao Roberto, ciao Mario, buonanotte. Ciao Roberto, buonanotte, 244 e buon lavoro per domani. E la mia misura per un nome si lo più lungo. Ah sì, buonanotte. Buonanotte la moglie, come va? Sempre al canale 10, 27, 075. Diamo durata per voi e l'operatore Gianni Dolci Rum. Ciao. Come si faceva nei sacchetti pubblicitari, la sigla della, come si chiama, dell'Eurovisione e finì tutto. Ciao di nuovo a tutti, buonanotte.